Perfetto! Avventuriero, il tuo quadrante copre 45 gradi. Questo significa che dovrai superare una forza di 4,5. Vediamo se la fortuna ti sorride. Per tirare il dado, posiziona il tag dado sullo schermo.